Forse si muore oggi, senza morire. Si spegne il fuoco al centro. Sanguinano le bandiere. Generale è la resa. Ciò che nasce ora crescerà in prigionia. Reggete ancora porte invisibili dell'Alleanza, bastioni di Sereno. Puntellate il bene che si sfalda in briciole, in cartoni. Il popolo è disperso. In seno ad ognuno cresce il debole recinto della paura, la bestia spaventosa. A chi chiedere aiuto? È desolato, deserto il panorama. Si faccia avanti chi sa fare il pane. Si faccia avanti chi sa crescere il grano. Cominciamo da qui.